l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, 7 minuti dopo le 12 in diretta, oggi sabato 7 gennaio 2017 con il nostro appuntamento dedicato alle storie, alle persone, alle opportunità, alle possibilità dell'Europa. Euronetplus.eu è il portale del network al quale apparteniamo, portale che vi invito sempre a visitare, oppure radio24.it per tutti i contributi extra e per ritrovare il podcast e riascoltare la puntata. Le coordinate invece per i social network: @euronetplusr24, oppure i miei account personali: @FedericoTaddia, Twitter e Facebook. Lì mettiamo tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Ogni settimana un viaggio. Oggi partiamo da Parigi. Janvier 2015, j'ai pas envie d'aller au lit. Je préfère prendre un stylo car ce soir, je suis Charlie. Nos artisans de la liberté ont rencontré leur destinée. Ce soir, j'écris pour eux parce que je sais pas dessiner. Soyons 66 millions à avoir la même idée pour que leur cartouche d'encre à eux ne soit plus jamais vidée. Laissons des traces indélébiles pour que l'avenir puisse savoir que leur talent et leur courage ne vivent pas que dans nos mémoires. Écrivains, paroliers, dessinateurs, graffeurs, musiciens, poètes, peintres et sculpteurs, célébrités anonymes, professionnels et amateurs, faisons en sorte que cet élan s'affiche plus loin que sur Twitter. Des hommes sont morts pour défendre la liberté d'expression, mais leurs idées doivent rayonner et ne subir aucune pression contre l'obscurantisme avec honneur et insolence. À nous de prendre les crayons pour que leur combat ait un sens. J'ai mal à l'être humain, comment en est-on arrivé là? Era il 7 gennaio di due anni fa, del 2015, a Parigi, quando due killer irrompono nella redazione del giornale satirico Charlie Hebdo e uccidono a colpi di mitra 12 persone inermi. Un anniversario tragico a cui sono seguite altre tragedie che ben conosciamo. E ritorniamo a quel giorno, lo facciamo con una giornalista che di fatto ha vissuto i minuti immediatamente successivi all'attentato, essendola sul posto. È autrice di un libro uscito prima in Francia, uscito da qualche mese in Italia, che racconta una storia, che racconta tante storie per ripercorrere quei fatti. Il libro si intitola L'edicolante di Charlie. Lei è Anaïs Ginori. Buongiorno Anaïs, ben ritrovata qui all'altra Europa. Buongiorno. Dove sei oggi con la testa? Io sono sempre a Parigi, e sempre nel quartiere in questo 11° arrondissement dove c'era stato l'attentato di quel 7 gennaio, dove poi purtroppo c'erano stati anche altri attentati, ed è un quartiere. Oggi è una giornata grigia e fredda come allora, devo dire, però il quartiere vive. E ci riflettiamo proprio in questi giorni anche di festa sul fatto che Parigi tutto sommato sta cercando di superare questi due anni molto difficili, e ci sono ancora le decorazioni di Natale, ci sono i ristoranti pieni, insomma comunque è una città che ha reagito e che ha dimostrato un senso di resilienza forte, anche se comunque cioè, le cicatrici esistono e ogni tanto si intravedono. E sono vivissime. Quanto il raccontare storie di ordinaria quotidianità ha aiutato a non tanto a superare, però forse a appunto riprendere confidenza con l'ordinario, col giorno per giorno? Sì, cioè, il libro che ho fatto appunto parte un po' dall'idea di raccontare delle storie. È una storia portante, questa dell'edicolante Patrick Deschamps, che è l'edicolante di Saint-Germain-des-Prés, che conosceva Cabu e Voninsky, e per una coincidenza incredibile è stato uno degli ultimi a vedere i due disegnatori principe di Charlie Hebdo quella mattina del 7 gennaio. Ha venduto i giornali a Cabu e Voninsky, che poi sono andati a morire nella redazione di Charlie Hebdo. E Patrick Deschamps, l'edicolante di Saint-Germain-des-Prés, qualche ora dopo è stato, per un'altra coincidenza incredibile, e il primo a vedere a viso scoperto i due terroristi, fratelli Quaschi, che dopo aver ucciso Carbì Volinsky e altri disegnatori e giornalisti della redazione sono fuggiti nel nord di Parigi e hanno incrociato per caso la macchina dell'edicolante, hanno fermato l'edicolante, hanno puntato la Kalashnikov e gli hanno chiesto di dargli, insomma, hanno intimato di dare loro la sua macchina e con la macchina dell'edicolante di Charlie sono poi fuggiti per 2 giorni insomma, fino a certo. Quando sono andati a morire in una tipografia. Questa storia dell'edicolante, che comunque partiva da questa una specie di sceneggiatura di film per coincidenze di tempo, luogo e persone, però poi mi ha permesso di raccontare tante altre storie, e tutto sommato il libro che ripercorre questa settimana tra il 7 e il 14 gennaio, tra il 7 gennaio che era un mercoledì mattina in cui usciva in edicola il numero di Charlie, perché Charlie esce un settimanale che esce il mercoledì e arrivava in edicola quel mercoledì, anche nell'edicola di Patrick, e poi il 14 gennaio riesce, tutto nonostante tutto quello che è successo, a uscire in edicola con un numero dei superstiti che sarà venduto in più di 3 milioni di copie, mentre la settimana prima Charlie in edicola era un settimanale quasi clandestino che stava morendo nel senso finanziario del termine. Non è di editoriale, non aveva più lettori, non aveva più soldi. Quindi questa parabola anche editoriale, che poi è anche umana, che poi è anche in qualche modo simbolica, ho raccontato tante storie, che sono appunto anche le storie dei giornalisti, dei disegnatori di Charlie, sono le storie di chi era intorno a questa redazione, ma anche dei poliziotti, di tutti quelli che hanno incrociato, le traiettorie che hanno incrociato questa folle settimana che ha sconvolto la Francia e l'Europa, e che pensavamo allora, anch'io devo dire, pensavo avrebbe in qualche modo, era una parentesi che si apriva e si chiudeva di terrore, e poi invece abbiamo scoperto che invece era l'inizio di qualcosa, di una nuova certo. stagione, di una nuova epoca in cui tuttora ci troviamo. Anais, l'edicolante lavora ancora lì? L'hai rincontrato? Sì, sì, l'edicolante, ci siamo ormai amici e lo vedo spesso. In realtà adesso va in pensione, da gennaio ha 65 anni e quindi lascerà l'edicola. Dopo quasi 40 anni in cui ha fatto l'edicolante, se ne va con un po' di malinconia, perché ovviamente sa che il suo mestiere sta morendo, è un mestiere destinato, ma ci saranno forse ancora delle edicole a Parigi nei prossimi anni, però ce ne sono sempre meno. Quella di Saint-Germain-des-Prés è la più grande della capitale, però quindi è quella che rischia di meno di chiudere. In altri quartieri invece stanno smobilitando molti edicolanti, ed è ovviamente la malinconia per un mondo, questo mondo della carta stampata, che è minacciato, che è in qualche modo in mezzo a una trasformazione storica, epocale, legata all'avvento del digitale, e anche questo io cerco di raccontare nel libro, insomma nel sottotraccio c'è un filo conduttore, che è questo mondo che finisce, un altro mondo nuovo che appare, e in mezzo c'è la trasformazione dei media, la trasformazione che poi è dell'informazione, di come noi siamo informati, di come noi ci informiamo. Si faceva un tempo sfogliando il giornale la mattina, c'era questa preghiera laica, così la chiamava Hegel, no? Ogni mattina, appunto, a Saint-Germain-des-Prés capita ancora, ma sempre di meno, di vedere al Flore o al Demagogue, i due caffè storici di Saint-Germain-des-Prés, capita ancora di vedere al mattino un signore, una ragazza con il giornale, il caffè, il croissant, che passa magari mezz'ora, un'ora a sfogliare, a informarsi. Però sappiamo che è un gesto che sta scomparendo. Ovviamente c'è tutto il resto, che sono questa informazione continua che noi abbiamo sui telefoni, sui computer. Quindi, però nel libro è un po' un omaggio a quest'epoca che sta finendo, a delle persone che hanno vissuto quest'epoca, cioè c'è l'edicolante, ma anche Cabiu e Volinsky, appunto le due vittime di Charlie Hebdo, erano dei divoratori di giornali di carta stampata. Io quando ho visto le loro case dopo la loro morte, avevano questi archivi immensi, erano le stanze occupate da montagne di carta, di montagne di libri, e anche queste sono immagini che vediamo sempre di meno, però sono immagini, secondo me, che fanno parte di un di una cultura, sì, di una storia, di, certo, esatto, esatto, di un presente che c'è, sempre più piccolo, in trasformazione, sì, che, esatto, su cui però è importante soffermarsi, come hai fatto tu benissimo nel libro L'edicolante di Sarli. Ve lo consiglio perché è davvero una bella lettura, intanto, e poi uno spaccato moderno e divergente, sia dei fatti di Parigi sia della nostra contemporaneità. Anaïs Ginori, Bompiani, questa è la casa editrice. Grazie Anaïs, complimenti e buona giornata, buon sabato. Grazie anche a voi. Noi ci fermiamo, il traffico poi ancora qua con l'altra Europa. L'altra Europa. Adesso ci spostiamo ai confini dell'Europa, o meglio ai confini dell'Unione. Siamo pienamente in Europa, siamo in una nazione che, insomma, da un po' ha avviato anche il proprio percorso richiedendo l'adesione all'interno dell'Unione. È una delle nazioni forse più italiane per vicinanza sia geografica che culturale, per il passato anche faticoso, anche controverso che insieme abbiamo vissuto. Sto parlando dell'Albania e sto parlando in particolare di Tirana. Perché? Perché a Tirana si sta lavorando a un progetto a lunga distanza, non lunghissima poi perché è il 2030, che insomma è di fatto dopodomani, per trasformare una città, trasformare una metropoli, trasformare anche una cultura del vivere, della qualità della vita, del rapporto col territorio. Mi piace raccontare questa storia perché credo che sia un esempio reale di cosa significhi lavorare con lungimiranza e del come la parola trasformazione non debba spaventare, e come un qualcosa che sta accadendo ai confini dell'Unione Europea possa, secondo me, invece essere considerata una buona pratica, uno stimolo per quello che può e dovrebbe accadere nell'Europa. A coordinare, a capo di questo progetto, c'è un architetto italiano, Stefano Boeri, che bene conosciamo, e da lui ci facciamo raccontare quello che sta accadendo a Tirana. Ciao Stefano, ben ritrovato qui all'Altra Europa. Buongiorno a tutti, eccomi, grazie. Tanto sei ad Amatrice, credo, vero? Sì, sto andando giù. Allora, grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Cosa sta accadendo a Tirana? Ma sta accadendo che abbiamo consegnato settimana scorsa, il 26, abbiamo presentato in Consiglio Comunale il nuovo piano regolatore dell'area metropolitana, esito di un concorso fatto 2 anni fa, molto interessante perché è un concorso per visioni urbane sviluppato dal governo in collaborazione con tutti i principali centri urbani simultanei, cioè tutte le grandi città albanesi in questo anno e mezzo hanno chiamato gruppi di architetti locali o internazionali a pensare al loro futuro in modo simultaneo, quindi è un modo molto interessante di lavorare sia alla scala della singola città sia in qualche modo di lavorare insieme sulle trasformazioni del paesaggio di tutto il paese. Ma è un progetto unico nella sua tipologia, o già avevi visto progetti simili? Così non è una cosa assolutamente originale, e in un certo senso conferma il fatto che l'Albania è un paese molto interessante, un paese, come dire, che ha, come dicevi, dietro di sé delle arretratezze, una storia molto complicata, anche una esclusione per quasi 50 anni dalla vita politica, sociale, dall'innovazione, però negli ultimi anni con ha recuperato moltissimo su alcuni campi, e in questo senso è un paese di grandissimo suggestione e interesse. Se uno arriva oggi a Tirana o nell'area metropolitana di Tirana, cosa vede? Qual è la città che... Se si trova davanti. Vede una città, è una specie di palinsesto della politica, della geopolitica del Novecento, perché Tirana è stata storicamente città ottomana, quindi con una presenza fortissima della cultura islamica, tra parentesi il 50% degli abitanti è di fede islamica. Però su questa città nel Novecento si sono sovrapposti pezzi della geopolitica del mondo molto diversi, naturalmente l'occupazione italiana iniziale dagli anni 20, che ha cambiato la città, ha costruito l'asse centrale, i monumenti principali, e poi da lì in poi con l'inizio del regime socialista, con Enver Hoxha, nel regime del dopoguerra, ci sono due fasi, una fase con una presenza fortissima della cultura, anche della cultura urbanistica sovietica, una seconda fase con la presenza della cultura cinese. La piazza centrale di Piazza Scandale, che è un'enorme piazza alla scala dell'intero paese, ha proprio 4-5 monumenti che sono, uno chiaramente riferito alla cultura italiana degli anni 20, uno al grande modello dei monumenti socialisti sovietici, uno ai monumenti cinesi, e poi sono invece intervenuti negli anni 90 con la chiusura del regime di Enver Hoxha. C'è un periodo di caos totale in cui sostanzialmente mancava il catasto, quindi c'è stata una corsa alla costruzione, ma la costruzione ovunque si è costruita, nelle strade, nelle piazze, persino nelle alghe dei fiumi. C'è uno fiume del Tirana che mi ricordo che una volta sono andato era assolutamente pieno di costruzioni, e fino all'inizio del 2000 non c'erano regole. Quindi ancora oggi è una città che registra sul suo corpo questa follia di questa moltitudine di edifici costruiti ovunque. Quindi è davvero molto particolare quello che si vede entrando a Tirana, perché uno legge queste strutture storiche del Novecento, però poi in qualche modo sommerse da questa densità folle di edifici, sostanzialmente piccoli, fatti da centinaia di individui, di famiglie, di gruppi che volevano in qualche modo segnare la propria... come dire, ambizione ad avere una proprietà sul suolo. Certo. Allora, tre grandi filoni in questo master plan che è stato approvato, tra l'altro, proprio pochi giorni fa: un affresco metropolitano fondato su 10 grandi temi: biodiversità, policentrismo, sapere diffuso, mobilità, acqua, geopolitica, turismo, accessibilità, agricoltura, energia. Un atlante composto da 13 progetti strategici collocati nel territorio e una carta di regole elaborate intorno a 5 sistemi: natura, infrastruttura, città, agricoltura, acqua. Questa è la grande grammatica della Tirana che sarà. Cosa significa questo? Andare a costruire, andare a distruggere, andare a spostare, andare a ricollocare? Cosa di fatto in questi 15 anni cosa vedremo a Tirana? Ma significa innanzitutto ritornare ad avere innanzitutto una visione del futuro della città condivisa, perché appunto siamo passati da una da un'autocrazia a una situazione di anarchia totale, e oggi Tirana cerca e credo meriti invece anche un progetto condiviso. E quindi quello che abbiamo cercato di fare, devo dire lavorando moltissimo sia con la municipalità, con le municipalità, perché poi tra l'altro è un'area metropolitana molto grande, forse la capitale continentale con un'area metropolitana più estesa, quindi abbiamo fatto un lavoro anche molto forte di condivisione e di partecipazione. Ma dicevamo, una visione che vuol dire prima di tutto smettere di costruire fuori dai confini della città già costruita. Quindi la prima scelta è un bosco orbitale, cioè piantare più di 3 milioni di alberi e segnare così il confine, come per dire, anzi dicendo in modo molto chiaro, non si costruisce più fuori dalla città già costruita, okay. Anche perché attorno ci sono aree agricole, ci sono sistemi naturali, ci sono sistemi fluviali, montagne bellissime, peraltro è una grande risorsa anche economica che non è mai stata davvero sfruttata. Poi all'interno della città abbiamo fatto due operazioni: una è quella di recuperare anche qui spazi verdi, cercando di realizzare due grandi anelli verdi pedonali ciclabili nel cuore della città, un nuovo parco, alcune altre zone a verde, e poi recuperare spazi pubblici, perché appunto dicevamo prima, la città è una città talmente densamente costruita che è difficile trovare non solo piazze ma spazi per funzioni, per servizi. E allora, siccome una delle grandi sfide è quella di costruire nei prossimi anni 20 nuove scuole, che poi hanno un po' il senso di essere scuole aperte 24 ore, cioè scuole di fatto che sono dei centri pubblici, dei centri civici, che mancano completamente spazi pubblici nella città, abbiamo ragionato molto nel dove collocare queste scuole, diradando il tessuto, quindi spostando i volumi, cioè dando degli incentivi a chi poteva costruire magari più in altezza, lasciando spazio aperto. E quindi è stata un po' questa l'altra grande sfida. Quindi diciamo, bloccare lo sviluppo estensivo e costruire solo dentro nella città, però soprattutto spazi pubblici e servizi ai cittadini. Certo. Stefano, per un'ultima domanda, per un architetto, per un visionario anche, proprio i piedi per terra, quale, insomma, tu sei, inizia adesso il bello o una volta finita la progettazione, vabbè, il gusto è terminato? Ma noi abbiamo proprio cercato di fare un progetto che fosse, come dire, anche avesse una dimensione pragmatica, perché abbiamo costruito questa visione che tra l'altro è un film, è una visione che racconta anche in modo molto semplice cosa potrebbe diventare Tirana. Poi questi 13 progetti sono progetti molto concreti, cioè dicono cosa si può fare da subito per realizzare quella Tirana che sta nella visione, e le regole sono regole ma anche quelle molto semplici. Quindi io sono ottimista, nel senso che non è nulla di impossibile, e certo c'è una dimensione utopica in una città che è stata appunto la culla di una costruzione folle e che oggi cerca di diventare una città che lavora invece in una dimensione completamente diversa, accettando una sfida di una città verde, una città che recupera un rapporto con le foreste, con l'agricoltura, però possibile. Complimenti, ovviamente seguiremo l'Altra Europa nei prossimi mesi, nei prossimi anni anche, speriamo, lo sviluppo di questo progetto, perché come ho detto prima, insomma, ci sembra un bel faro anche per le altre capitali, le altre metropoli europee. Ciao, grazie a Stefano Boeri, grazie, buon mille, lavoro. Ciao Stefano. Mille, ciao. Adesso ci fermiamo, un Europost-it, la pubblicità, poi ancora qua con l'Altra Europa. Europost-it. Posticipata la deadline per il Festival delle Carriere Internazionali. A tutti i giovani alla ricerca di una carriera europea, è stata posticipata la deadline per le iscrizioni al Festival delle Carriere Internazionali, che si svolgerà a Roma dall'11 al 14 marzo con il patrocinio della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Si tratterà della seconda edizione dell'evento dedicato interamente ai giovani che vogliono farsi strada nel competitivo mercato del lavoro all'estero. Un evento orientato al lavoro e all'internazionalità come fattori di crescita. Durante i 4 giorni del festival, più di 35.000 ragazzi avranno la possibilità di confrontarsi con funzionari di organismi internazionali, rappresentanti delle più importanti ONG in Italia e nel mondo e human resources di prestigiose aziende. Per iscrizioni e informazioni, visitate il sito ufficiale festivaldellecarriereinternazionali.org. L'altra Europa. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'Altra Europa, chiocciola Federico Taddia, Twitter e Facebook per trovare tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Progetti europei, opportunità, possibilità, insomma l'Europa che ci piace raccontare senza nascondere problemi e criticità, cosa che poi Radio 24 fa quotidianamente con tutti i suoi appuntamenti europei. Noi il sabato nel nostro programma cerchiamo così di dare strumenti, di dare buone pratiche, di dare occasioni anche di riscatto per questa per questa Europa. E a proposito di progetti europei, vi andiamo a presentarne uno adesso che verrà di fatto raccontato il 13 gennaio presso l'Orto Botanico di Roma. Si parla di alieni, ma non pensate agli extraterrestri, stiamo parlando di specie aliene, quindi ecosistemi a rischio per la presenza di animali non o piante non autoctone. E ne parliamo con Piero Genovesi, referente del progetto Life ASAP per ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Buongiorno Genovesi, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, buon sabato a tutti. C'è un'invasione aliena in corso? Beh, è un problema molto diffuso e crescente, questo delle specie animali, ma anche vegetali, portate dall'uomo al di fuori dei loro territori originali. Questo succede a volte intenzionalmente, a volte accidentalmente, ed è un fenomeno in forte crescita che provoca anche crescenti impatti. Ma ci può fare qualche esempio così capiamo immediatamente? Sì, innanzitutto diciamo, il problema è veramente un problema globale. Qualche anno fa abbiamo fatto uno studio pubblicato su Science insieme ad altri colleghi che ha dimostrato come il numero di specie trasportate appunto dall'uomo sia aumentato di oltre il 75% in 30 anni. E parliamo ad esempio di predatori portati su molte isole del mondo che sono la prima causa di estinzione delle specie endemiche che vivono sulle isole. Nel mondo le specie aliene invasive sono la seconda causa, maggiore causa di estinzioni di specie autoctone. E queste possono riguardare organismi molto diversi, appunto dicevamo piante, animali. Ad esempio molti mammiferi sono arrivati come animali d'affezione, pensiamo allo scoiattolo grigio, pensiamo al cane crocione, al procione, oppure sono arrivati, pensiamo alle nutrie, sì, che sono un roditore di origine dell'America Latina, che è stato importato per la pelliccia, era il famoso castorino, e poi fuggito dagli allevamenti. Quindi per gli animali come i mammiferi e gli uccelli spesso l'importazione, l'introduzione è intenzionale. Invece quando parliamo di invertebrati, pensiamo al tarlo asiatico, che è un parassita che ha colpito la Lombardia, è arrivato come ospite indesiderato sopra dei bonsai che erano stati commercializzati. Quindi spesso gli invertebrati arrivano accidentalmente. Questo è un fenomeno, ad esempio, che riguarda molto i nostri mari. Nelle acque di zavorra delle navi viaggiano tantissime larve, organismi di altre zone del mondo che poi quando le navi arrivano nei nostri porti possono essere liberate e insediarsi. Certo, un progetto del valore complessivo di 3 milioni di euro finanziato per 1.800.000 euro dall'Unione Europea e tra i cofinanziatori il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri, Lago Negrese, il Parco Nazionale del Vesuvio, il Parco Nazionale dell'Aspromonte, il Parco Nazionale del Gran Paradiso. E di fatto cosa succederà? Quali sono le azioni che metterete in atto? Ma dunque, questo progetto è un progetto, gli strumenti LIFE sono degli strumenti che noi abbiamo utilizzato moltissimo in Italia per molti progetti di conservazione della natura. Però nell'ambito dei progetti LIFE, questi di governance e informazione sono particolarmente difficili da ottenere. Quindi siamo molto soddisfatti del fatto che questo progetto sia stato accettato dalla comunità europea. Lavoreremo insieme ad altri beneficiari associati come Legambiente, la Federazione Italiana dei Parchi, la Direzione Ambiente della Regione Lazio, l'Orto Botanico dell'Università degli Studi di Cagliari, poi due società, la Nemo di Firenze che ha molta esperienza sulla gestione delle specie invasive e l'Unisiti di Roma che ha una particolare expertise sulla comunicazione. L'obiettivo è quello di informare meglio il pubblico e i diversi settori della società che hanno a che fare in diverso modo con l'introduzione, l'importazione o la gestione di specie invasive per migliorare i comportamenti virtuosi che si possono adottare per limitare questo fenomeno. L'Europa ha adottato un paio d'anni fa un regolamento sulle specie invasive che impone una serie di misure di prevenzione, di regolamentazione del commercio, del possesso, del trasporto di questi organismi. Questo è un fenomeno che senza una maggior comprensione da parte della società difficilmente potrà essere combattuto in maniera efficace. Quindi le azioni che questo LIFE, che questo progetto mette in campo sono da un lato quelle di informazione, ad esempio di tutte le regioni italiane che sono spesso gli organismi che poi sono chiamati a mettere in campo misure di prevenzione tipo di gestione, ma anche i parchi nazionali. Per questo abbiamo 4 parchi cofinanziatori, abbiamo anche l'interesse del Ministero dell'Ambiente, perché ci saranno delle linee guida che verranno adottate nei parchi nazionali, ci saranno dei sentieri natura per informare i visitatori dei parchi. E per lo stesso motivo il progetto viene presentato nell'Orto Botanico di Roma e abbiamo l'Orto Botanico di Cagliari, che è un altro beneficiario. Gli orti botanici, insieme al zoo, insieme ad altre strutture, saranno un po' degli ambasciatori dei messaggi che attraverso questo progetto vogliamo diffondere. Anche il Muse di Trento collaborerà divulgando il materiale del progetto, mettendo a disposizione i propri spazi per attività informative. Insomma, quindi diciamo l'obiettivo è quello di migliorare la comprensione del fenomeno e promuovere in diversi settori della società, dai parchi ma anche nei settori come gli acquariofili o chi commercia animali d'affezione o piante ornamentali, capire meglio come dobbiamo modificare i nostri comportamenti per ridurre il rischio di introdurre specie invasive. Facendo, come abbiamo sentito, attività di sistema su tutto il territorio con tutti gli organi competenti, che anche questo è importante. Grazie davvero, certo. Buon lavoro Genovesi, ci ritroveremo sicuramente qui all'altra Europa per conoscere poi nel Grazie, dettaglio il progetto. Ne proseguo. Buon sabato, salve. Europost-it. Premio per tesi sul contrasto alla violenza contro le donne. Sei uno studente universitario o un dottorando interessato alle tematiche di genere? Stai scrivendo o hai intenzione di scrivere una tesi sulle iniziative contro la violenza sulle donne? Allora attenzione, perché la delegazione italiana dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, in collaborazione con il governo italiano, la CRUI e il Consiglio d'Europa, indice l'edizione 2017 del premio per la migliore tesi di laurea magistrale e di dottorato sul tema del contrasto alla violenza contro le donne. I vincitori si aggiudicheranno un premio in denaro e la possibilità di effettuare un periodo di perfezionamento presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo. Possono partecipare tutti coloro che abbiano discusso una tesi di laurea magistrale o di dottorato sull'argomento del bando in una università italiana, pubblica o privata, tra il 1 agosto 2015 e il 31 luglio 2017. Informazioni e bando sul sito della Camera dei Deputati, camera.it. Un progetto per lo sviluppare la domotica, quindi il controllo, la gestione di apparati elettrodomestici, apparati elettrici, soprattutto in casa, attraverso l'utilizzo della voce. Questo è un po' il cuore di un progetto finanziato dal programma RISE di Horizon 2020, un progetto al quale partecipa un consorzio per l'Italia, cioè CEDAT 85, che da 30 anni si occupa di sviluppare servizi e tecnologie per il trattamento del linguaggio. Conosciamo meglio questo LISTEN, che è il nome del progetto, lo facciamo con Enrico Giannotti, con direttore generale di CEDAT 85. Buongiorno Giannotti. Buongiorno e buon anno. Buon anno a lei. Allora, un progetto curioso, nel senso che la prima domanda diventa: ma perché l'Europa deve finanziare un progetto di questo tipo? Quali sono le potenzialità, le ricadute nella nostra quotidianità? Beh, l'Europa ha finalmente finanziato un progetto di questo tipo, parzialmente colmando una lacuna enorme, visto quello invece che altri paesi, come in particolare gli Stati Uniti, con player quali Amazon, Google, Microsoft, Apple, stanno facendo, investendo milioni e milioni di dollari in questo settore. Questo settore è quello dell'intelligenza artificiale, quindi la possibilità di utilizzare anche la voce, interagire con le macchine, quindi con gli elettrodomestici, con un sistema di riscaldamento, un impianto di riscaldamento, un impianto elettrico anche attraverso la voce. E da qui quindi probabilmente anche il fatto di aver individuato una linea sulla quale c'è pochissimo a livello europeo, e questo progetto è stato considerato altamente innovativo dall'Unione Europea e nel 2015 è stato approvato ed ormai più di un anno che ci lavoriamo già con ottimi risultati. Avete già sperimentato? Sì, proprio abbiamo già realizzato buona parte del progetto, costruito un primo prototipo che è stato anche presentato ai funzionari dell'Unione Europea lo scorso ottobre nella sede del centro di ricerca greco, che è uno dei quattro partner insieme a noi di questo progetto, e abbiamo dimostrato già come il sistema è in grado di rispondere a quattro lingue, quindi l'italiano, l'inglese, il tedesco e il greco, e a attivare una serie di funzionalità collegato all'impianto elettrico, all'impianto di gestione di finestre ed elettrodomestici. Ora i passi successivi sono quelli di implementare le funzionalità per interagire in maniera estremamente naturale col sistema, perché la particolarità è quella che il sistema è progettato e si sta costruendo in modo tale da apprendere il linguaggio naturale dell'uomo, quindi sovvertendo quella che è la tipica modalità con la quale noi ci interfacciamo con le tecnologie, con lo smartphone, con la TV. Dobbiamo sempre studiare un manuale, dobbiamo capire come funziona l'apparecchio. Invece quello che stiamo cercando di realizzare è un sistema che capisce il linguaggio naturale dell'uomo e quindi utilizza le grammatiche con le quali noi siamo normalmente abituati a esprimerci e a conversare. Insomma, un futuro che è già presente. listenlinetaproject.eu, il portale per conoscere il progetto nel dettaglio. Grazie Gianotti, poi magari tra qualche mese ci risentiamo e facciamo una sperimentazione via voce anche attraverso la radio, così capiamo nel concreto cosa volentieri possa significare. Va bene? Perché sarà possibile con il sistema anche accedere a internet, dettare email, dettare sms, quindi controllare più ad ampio raggio ciò che oramai fa parte della nostra vita quotidiana. Sperimenteremo. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro, grazie, buona giornata, arrivederci. Ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua, con l'altra Europa. Europost-it. Nuove opportunità a EPSO in istituzioni ed agenzie dell'Unione Europea. Ti piacerebbe intraprendere una carriera all'interno delle istituzioni o delle agenzie europee? Sei alla ricerca di un gruppo di lavoro eterogeneo e multiculturale e desideri sfruttare al meglio le tue competenze linguistiche? EPSO, Ufficio Europeo di Selezione del Personale, è alla continua ricerca di candidati per tantissime posizioni professionali. L'Unione Europea offre infatti opportunità di carriera a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo, ma anche nelle agenzie dislocate di tutta Europa e presso le delegazioni dell'Unione Europea di tutto il mondo. Possono candidarsi tutti i cittadini europei, madrelingua in una delle lingue ufficiali dell'Unione, che abbiano una buona conoscenza di una seconda lingua. Per conoscere tutte le posizioni disponibili, visita il sito epso.europa.eu. L'altra Europa. Much sperimentare, testare, di implementare delle metodologie innovative, delle pratiche educative nelle scuole secondarie di 8 paesi europei. Questo è il cuore del progetto Up Your School, che vede coinvolte Repubblica Ceca, Polonia, Finlandia, Grecia, Italia, Lituania, Portogallo e Turchia. E proprio nell'ambito di questo progetto si sta aprendo una settimana importante a Bologna. Da lunedì 9, 40 insegnanti delle nazioni coinvolte si ritroveranno presso il centro Alberto Manzi per capire come progettare queste nuove esperienze educative. Abbiamo parlato di linguaggio e nuove tecnologie fino a un attimo fa, e di nuovo il linguaggio con il maestro televisivo, il maestro Alberto Manzi torna al centro. Cosa accadrà in questa settimana ce lo racconta Alessandra Falconi, responsabile del centro Alberto Manzi di Bologna. Ciao Alessandra, ben ritrovata qui all'Altra Europa. Buongiorno a tutti voi. 40 insegnanti appunto di queste 8 nazioni che lavoreranno con quali obiettivi e su quali materiali? Allora, 40 insegnanti che già saranno bravissime perché lavoreranno tutte in inglese pur provenendo da lingue chiaramente diverse. Quindi il primo sforzo sarà quello di riuscire a trasmettere la passione di questo maestro e il suo saper fare le cose con un ostacolo linguistico che chiaramente così ci mette nelle condizioni di dover capire come alcune sfumature, alcune leggerezze, alcune delicatezze, alcune grandi intuizioni di questo maestro possano essere utili tanto ad un insegnante in Finlandia come in Portogallo. Alessandra, scusami, quindi, maestro che conoscono tra l'altro, nel senso, hai avuto già occasione di parlare con questi insegnanti, la figura di Alberto Manzi è valica ai confini italiani? Allora, comincia a valicare i confini italiani, questo sì. Dobbiamo dire che dopo anni di lavoro in effetti su questo stiamo raccogliendo dei risultati positivi. C'è molto interesse per la figura di Alberto Manzi perché è un maestro che è riuscito a fare scuola usando pochissimo una modalità trasmissiva frontale, direi quasi niente. E è stato molto bravo invece a progettare delle esperienze e quindi oggi che c'è un'attenzione, pensiamo alla Finlandia, no? Che sta lavorando addirittura sull'abolizione delle materie per lavorare invece su una didattica che passa dalle esperienze concrete dove poi lì si sviluppano competenze e conoscenze, in realtà guarda il modello Manzi come qualcosa che forse l'Italia sa già fare. Certo. E quindi a volte ci sentiamo anche richiamati dall'estero a cercare di capire modelli che abbiamo in casa, che per fortuna stiamo valorizzando, perché devo essere sincera, c'è tantissima attenzione al modo di fare scuola di questo maestro. Sicuramente c'è stata una riscoperta e un desiderio di capire altissimo, tant'è che mi trovo a fare formazione proprio dalla carne a Matera per aiutare le insegnanti a entrare dentro. Certo. Questo modo di fare scuola che abbandona un po' la parola e recupera le mani con questa grande fiducia nei ragazzi, in quello che sanno fare, con dei contatti molto forti con la realtà che vivono, proprio per far sentire loro che la scuola è il luogo dove poter capire meglio la realtà, dove poter in qualche modo trovare degli occhiali per leggerla e anche per cambiarla. Occhiali sempre diversi, perché certo, poi le discipline ci insegnano che nuove scoperte scientifiche, tecnologiche, problemi linguistici ci portano a continuare ogni giorno a pensare a chi siamo noi e a qual è il nostro rapporto con il mondo. E questo insomma in parte è quello che succederà anche questa settimana, dove però non solo carta, non solo materiale semplice, ma anche le nuove tecnologie verranno utilizzate. Esatto, sì, praticamente intanto per far capire come lavorava questo maestro ho dovuto un po' fare lo sforzo di immaginare che loro diventassero gli allievi in questa classe ideale di questo maestro Manzi. Chiaramente, ahimè, io non sono il maestro Manzi, quindi dovranno prendersi quello che c'è in questo momento, però cominceremo a lavorare sulle icone e su quanto la comunicazione oggi debba al visivo e all'immagine, proprio perché, come diceva il maestro Manzi, partiamo da qualcosa che conosciamo bene e proviamo a portarlo il più in là possibile con una ricerca che possa aprire. E quindi è chiaro che io questa ricerca è già un mese che la sto portando avanti, e quindi arriveremo ad esempio a parlare di come raccontare l'immigrazione attraverso le icone, con una bellissima esperienza pilota fatta in Germania. Arriveremo a guardare come nel mondo arabo costruiamo certi sistemi di significato attraverso le icone. Quindi l'idea è proprio quello di partire dai nostri cellulari e da quello che facciamo tutti i giorni, magari su WhatsApp e Facebook, per andare invece ad interrogarci su dimensioni molto più profonde e significative per il vivere insieme. E poi andiamo avanti, perché proveremo anche ad intercettare il coding, la realtà virtuale, il videomapping. Insomma, quindi cercheremo di stare su tutto quello che è un po' la richiesta del progetto, capire quali grandi sfide ci sono dietro queste tecnologie, quali grandi domande possiamo condividere con i ragazzi, perché sull'uso più o meno stereotipato amano anche sperimentare da soli. Quello che noi dobbiamo in qualche modo capire è che cosa ha senso fare a scuola, dove porto un ragazzo rispetto a quello che lui sa già fare e spesso ama fare, per aiutarlo ad essere un cittadino creativo che può far svoltare la propria comunità locale. E questo insomma in tutta Europa, e questo ci piace. Happy Your School, centroalbertomanzi.it per tutte le informazioni, oppure c'è la pagina Facebook del progetto. Un grazie ad Alessandra Falconi, responsabile del Centro Alberto Manzi di Bologna. Ciao Alessandra. Grazie a voi. E noi abbiamo parlato di linguaggio, abbiamo parlato di scuola, e vogliamo chiudere questa puntata con un omaggio a Tullio De Mauro, deceduto appunto proprio un paio di giorni fa. È stato ospite qui all'Altra Europa qualche mese fa, e con lui abbiamo parlato di lingua, di linguaggio e di mobilità. Quindi chiudiamo con le sue parole, che ci sembra il modo migliore per ricordare la sua figura e la sua cultura. Questa è un'occasione fondamentale perché ci si scambi la conoscenza di lingue europee diverse dall'inglese e naturalmente la conoscenza dello stesso inglese, perché in molte università di molti paesi europei, specialmente ai livelli alti e più avanzati della ricerca, della specializzazione, l'inglese è la lingua franca più largamente usata, e quindi si imparano andando fuori di casa, specie per noi italiani che siamo molto pigri e molto indietro nella conoscenza di lingue straniere, si imparano altre lingue straniere e si impara tra queste anche l'inglese. Certo. Quindi questo è assolutamente un dato positivo e importante. E io ho cercato di dire più volte che l'Unione Europea ha il merito in questo caso di sostenere un fenomeno che ha una portata molto più vasta, che è quella della migrazione di studenti in generale per il mondo, anche senza nessun Erasmus. Si calcola che siano ormai ogni anno oltre 2,5 milioni gli studenti che dal proprio paese vanno a studiare, magari a spese proprie o per lo più a spese proprie, in altri paesi. Quindi è un fenomeno mondiale questo della migrazione dei giovani, anche non in stato di necessità, assolutamente, cioè voglio dire non nelle condizioni di essere costretti, dello studente italiano che si trova un muro davanti per quanto riguarda il suo avvenire perlomeno immediato. Certo. Ma anche il 18% di questi 2,5 milioni è fatto da studenti degli Stati Uniti che migrano verso altri paesi, e così percentuali enormi sono di studenti tedeschi, francesi, che da università di altissimo livello preferiscono seguire distinto la voglia di conoscere culture e paesi diversi e migrano in giro per il mondo. Sono i nuovi, nel Medioevo questo era normale, i clerici vagantes, e questi sono i nuovi clerici vagantes, e sono cifre enormi rispetto a quelle dell'Erasmus. Io credo che questo sia destinato a essere molto importante. L'omaggio di Tullio De Mauro alla lingua, alle lingue, all'Erasmus, alla mobilità. Con le sue parole chiudiamo questa puntata dell'Altra Europa. Un grazie a tutta la squadra, l'appuntamento come sempre alla prossima settimana. Ancora buon sabato da Federico Taddia. Ciao! L'Altra Europa. In collaborazione con Euronet Plus.